Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, una buona giornata da Deborah Rosciani. Allora, per una ragione o per un'altra, il tema del mutuo rimane sempre in cima ai pensieri delle famiglie. Chi ce l'ha e vorrebbe cambiarlo, chi ce l'ha e non riesce a pagarlo, chi sta comprando casa ed è alla ricerca del miglior finanziamento possibile, insomma il tema interessa moltissimi di noi. Oggi noi ci occupiamo proprio di quelle famiglie che stanno facendo due conti per capire se ci stanno dentro con lo stipendio, se conviene approfittare dei tassi bassissimi con un mutuo a tasso variabile o se è meglio impegnarsi mensilmente con una cifra più alta ma che sia per sempre quella, quindi con un tasso fisso. Alcuni degli interlocutori che interpelliamo su questo argomento per Salva Danaio di Frequente, uno di loro è qui questa mattina, poi ve lo presento, spesso ci danno un suggerimento molto utile che però credo in pochi prendano nella dovuta considerazione. Prima di scegliere la casa che volete comprare, fate una verifica su quale mutuo la banca riuscirà a concedervi, perché si fa sempre il procedimento contrario. Ci sembra più semplice scegliere prima la casa e poi andare in banca, invece sarebbe meglio proprio cominciare a metterci nell'ottica dell'idea di fare l'opposto. Prima vediamo se siamo, come dire, meritevoli di ottenere un determinato finanziamento e poi sulla base di quello vediamo anche quella che è la casa che siamo in grado di poterci comprare. Allora, ci possono aiutare in questo senso due nuove iniziative di mediazione creditizia online, di cui oggi abbiamo invitato i rappresentanti e che ci possono permettere di studiare proprio la fattibilità dell'operazione che chiediamo alla banca. Eustachio Allegretti, amministratore delegato di Big Beni Mobili Gestiti, che ha fatto partire di recente Mutuo Smart, che è uno strumento che esprime la fattibilità di mutui e prestiti. Allegretti, bentornato a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a tutti. Ed è alla persona a cui devo appunto questo suggerimento che molto spesso abbiamo dato da questi microfoni. Prima vedete se siete in grado di ottenere un finanziamento, poi sulla base di questo scegliete la casa. Ed è anche presidente, dottor Allegretti, di Assomea, che è l'associazione dei mediatori creditizi italiani. E poi saluto e ringrazio di essere con noi per la prima volta a Salva Danaio la dottoressa Simona Trabucchi, amministratore delegato di Simutuo. Dottoressa Trabucchi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Anche Simutuo è un comparatore di offerte nato molto recentemente e che anche in questo caso, più che darci il quadro del miglior mutuo in relazione alle condizioni di mercato, esprime il grado di fattibilità dell'erogazione. In sostanza ci dice se siamo in grado, in relazione alle nostre condizioni economiche, di ottenere o meno un determinato mutuo dalla banca. Peraltro c'è un sistema molto interessante: ad un certo punto il sistema ci dà o il semaforo verde o il semaforo arancione se qualche parametro non è in linea con le richieste appunto della banca. E insomma sono due strumenti molto interessanti. I comparatori peraltro stanno proliferando sul mercato, dovremmo imparare ad utilizzarli sempre di più, perché magari prima di cominciare a grinare tra uno sportello ad un altro, magari partiamo con un'offerta di base che potrebbe essere quella con la quale magari negoziare proprio anche con lo sportello più vicino a noi, se proprio dallo sportello non riusciamo a fare a meno. 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà l'opportunità di interagire con noi questa mattina, oppure scriveteci al 349 238 6666. Siete alla ricerca del mutuo, quali sono le vostre condizioni? Se volete stamattina con la dottoressa Trabucchi di Mutuo, magari possiamo farvi un preventivo al volo, quindi dovrete darci delle vostre informazioni sul, come dire, intanto il mutuo che avete intenzione di richiedere, quelle che sono le vostre capacità reddituali, dove abitate, magari riusciamo a farvi stamattina un preventivo al volo. La borsa, prima di partire con la scheda e con la chiacchierata con i nostri ospiti, è una borsa stamattina in territorio piuttosto negativo dopo i rialzi di ieri. La partenza era stata abbastanza tranquilla nelle prime battute e poi c'è stata un'improvvisa correzione verso il basso che vede adesso Parigi perdere 1,5 punti, Francoforte perde lo 0,68, Londra perde 1 punto, Milano meno 1,45%, la Grecia che perdeva fino a poco fa 1,5 punti adesso perde 3 punti. E insomma, governo greco alla caccia di questi 9 miliardi per rifinanziare la prossima asta di titoli di Stato in scadenza. Vedremo se i governi europei si metteranno d'accordo anche per erogare questa prima tranche al governo greco. L'euro piuttosto tranquillo rispetto al mercato azionario, 1,3317 il rapporto di cambio in questo momento. Mediaset ed Enel guidano i rialzi di Piazza Affari con prestazioni abbastanza differenti. Mediaset guadagna 1 punto, Enel più 0,12, e abbiamo già terminato la lista dei titoli positivi di Milano in questo momento. 5%, segno meno particolarmente forte su Italcementi che perde il 3,30%, ancora segno meno per il gruppo del risparmio gestito Azimut, meno 3, che sta vivendo delle giornate difficili da diverso tempo. Abbiamo Buzzi meno 3, Popolare di Milano meno 3, Intesa meno 2,5%, Geox meno 2,5%, Monte dei Paschi meno 2,36%, oggi assemblea degli azionisti, i vertici hanno detto che probabilmente la banca torna alla distribuzione al più presto di un congruo dividendo, ma questa ipotesi, questa opzione ancora non convince il mercato e il titolo scende. Oggi numerosissimi dati economici dagli Stati Uniti, ma soprattutto terremo sotto osservazione l'inizio della riunione della Banca Centrale Americana che domani stabilisce qualcosa sui tassi di interesse, probabilmente niente, rimarranno ancora su questo livello praticamente vicino allo zero a lungo, ma vedremo quali indicazioni forniranno appunto i rappresentanti della Federal Reserve. Lasciamo la borsa, oggi Salvadanaio torna sui mutui. Comprare una casa è un passo importante nella vita di ciascuno e alla decisione dell'appartamento da comprare segue inevitabilmente la scelta del mutuo da sottoscrivere. Una decisione importante considerato che riguarda un impegno finanziario che si protrarrà da un minimo di 10 anni a 30 anni o oltre. Una volta scelta la banca, valutando attentamente tutte le offerte migliori sul mercato, occorre dunque stabilire il mutuo più adatto alle proprie esigenze e scegliere tra tasso fisso o tasso variabile. Mai come nell'attuale periodo di mercato, la scelta si rivela difficile. Infatti, i tassi di interesse sono ai minimi degli ultimi 50 anni e quindi un tasso variabile permette rate molto contenute rispetto a qualche anno fa. Ma è anche vero che a questo livello il costo del denaro non potrà stare per sempre e allora la tentazione, per molti, è di fare un tasso fisso, più costoso del variabile, ma che darà un'assoluta tranquillità qualunque cosa accada in futuro sul mercato dei tassi. 800 24 00 24, stavo cominciando a curiosare le domande degli ascoltatori che stanno arrivando al numero verde, ma anche a quelle appunto che stanno arrivando al 349 238 6666. Allora, dottor Allegretti, mutuo smart intanto, così come si mutuo di Simona Trabucchi, è partito da pochissimo. Quali sono i nuovi obiettivi di questi nuovi servizi per il consumatore, per i clienti delle banche che sono a ricerca di mutuo? Insomma, lo sportello bancario ormai non va più di moda? Diciamo che non è più sufficiente, anche perché riteniamo che la sfida che noi ci accingiamo a raccogliere non è tanto quella della ricerca esasperata del mutuo al tasso più basso, anche perché, come lei ha detto, abbiamo l'Euribor a valori bassissimi, quindi quello che ci aspettiamo nel corso dei prossimi mesi è un aumento dello stesso, per cui non è quello soltanto che il mercato vuole. Io ritengo che il mercato voglia più attenzione. Più attenzione significa consulenza. Ed è difficile oggi che uno sportello bancario, sia pure molto efficace, sia in grado di ascoltare una persona per parecchio tempo, capire quelle che sono le sue reali esigenze e tentare di dare la soluzione giusta. Ma un portale internet che tipo di servizio può dare allora in questa direzione? È ancora un po' più freddo, direi, dell'impiegato alla banca, che per quanto poco magari un po' però ci ascolta. Infatti noi abbiamo scelto una strada diversa. Ecco. Abbiamo scelto questa strada che dà due possibilità. Una, che è la possibilità di chattare, quindi una chat line, domande e risposte in tempo reale, quindi aprire una finestra e un dialogo maggiore. E il secondo aspetto, che ritengo che sia quello più importante, che contraddistingue la nostra iniziativa, è quella della cosiddetta consulenza personalizzata a casa. Cioè noi diamo la possibilità all'utente di scegliere varie forme di intervento, quella online, la possibilità di avere risposte via chat e quella di avere il consulente personalizzato a casa senza ulteriori costi aggiuntivi. Benissimo. L'accordo con la nostra rete è: se volete vendere questo prodotto, lo dovete vendere a costo zero. Benissimo. No, tra l'altro volevo ricordare che Mutuo Smart si chiama Mutuo Smart, però in realtà intermediate anche l'erogazione di prestiti, finanziamenti di altro genere, esatto. Leasing, quindi. Leasing, cessioni del quinto, e ci stiamo avventurando in un comparto molto particolare che è anche i finanziamenti a favore delle imprese. Benissimo, ecco, ma tema delicatissimo anche quello, insomma, visto che proprio la banca non ha fatto molto negli ultimi 2 anni e quindi ci serve qualcuno che supporti le imprese in questo. Rimaniamo però ai consumatori e alle famiglie. Dottoressa Trabucchi, amministratore delegato di Si Mutuo, anche voi siete partiti da pochissimo, al momento permettete ai consumatori di fare una richiesta di fattibilità per l'erogazione solo ed esclusivamente di mutui. Quante aziende intermediate, insomma, e come vi siete trovati anche in questo contesto di mercato che è molto delicato? Abbiamo una fase in cui le banche sono state un po' più restie ad erogare finanziamenti, o quantomeno ne hanno erogati molto meno rispetto al passato, in percentuale per esempio anche molto inferiore rispetto ai valori delle case. Prima, fino a 2 anni fa, si erogavano almeno il 100% dei prestiti richiesti, adesso invece siamo al 60-70%. Insomma, come vi siete trovati anche rispetto al contesto di mercato? Beh, l'idea di Si Mutuo è nata proprio in seguito all'analisi che lei ha compiutamente fatto. Faccio solo una piccola precisazione: noi proponiamo solo ed esclusivamente il prodotto mutuo per scelta, mm-hmm. e non semplicemente perché siamo in una fase iniziale. Crediamo nella specificità della specializzazione, quindi vogliamo fornire al cliente uno strumento che consenta lui di farsi un'autoconsulenza e vogliamo accompagnarlo in una scelta consapevole, dando degli strumenti direttamente fruibili dal sito, traducendo un pochino quello che è il linguaggio bancario, che a volte risulta essere abbastanza di difficile comprensione per il cliente. Questa autoconsulenza nel nostro caso si spinge addirittura fino alla verifica della prefattibilità reddituale, quindi attraverso i nostri strumenti il cliente è in grado non solo di verificare quali sono i prodotti che le banche mettono a disposizione, di scegliere il prodotto, di poterne calcolare le spese, di poter calcolare le spese dell'operazione nella sua interezza, mm-hmm. comprendendo anche quelle relative alla perizia della casa, ho visto, esatto, nei notarili, la spesa per l'istruttoria, appunto. Esattamente, in questo modo il cliente può verificare la sua condizione rispetto alla scelta che sta facendo e valutando ancora con più serenità e con più dettagli l'acquisto dell'immobile. E infatti, allora, io ho invitato gli ascoltatori a, se volessero, farsi fare un preventivo in diretta. So che la dottoressa Trabucchi si è già messa davanti al suo computer con tutto il motore di ricerca per il confronto delle migliori offerte. Le dico già, dottoressa Trabucchi, che abbiamo Anna Maria da Vicenza che vuole farsi fare un possibile calcolo. Quindi, Anna Maria, le chiedo ancora un attimo di pazienza perché poi la faremo sbizzarrire, quindi con calma faremo questo tentativo di preventivo, poi prendetelo ovviamente con le pinze. Se volete invece, ovviamente potete anche andare sui siti e farci delle domande, se volete sapere direttamente dai responsabili di queste due da questi due motori di ricerca appunto qualche dettaglio in più rispetto al funzionamento. Si Mutuo e Mutuo Smart, quindi ve le rindico di nuovo. Allora, Salvadanaio, oggi è tornato un grande cavallo di battaglia, il mutuo. Non parliamo di rinegoziazione, di sospensione, parliamo di quelle famiglie che hanno intenzione, perché stanno comprando casa adesso, di chiederlo, e non parleremo tanto della convenienza di aprire un mutuo piuttosto che un altro perché i tassi sono di un certo tipo e quindi sono molto convenienti, il variabile eccetera. Vorremmo farvi capire che prima di scegliere la casa dei vostri sogni bisogna andarsi a fare un giro in banca o comunque scegliere magari un altro interlocutore per capire qual è la cifra che siamo in grado di ottenere. Poi da lì magari è bene fare la scelta dell'abitazione dei nostri sogni. Eustachio Allegretti, questo è il suo invece grande cavallo di battaglia, che ce l'ha trasmesso molte volte anche dai microfoni di Salvadanaio. A microfoni spenti mi raccontava anche di alcuni episodi con alcuni clienti con i quali spesso e volentieri si imbatte, e insomma la procedura però continua ad essere sempre diversa. C'è chi sceglie la casa, addirittura magari dà un anticipo piuttosto cospicuo, e poi si ritrova invece la porta chiusa dalla banca perché i problemi che sono venuti fuori in trattativa sono altri. Certo, perché spesso e volentieri non si fa da parte dell'operatore in genere una consulenza giusta, e quindi non si riescono a capire non solo quali sono le esigenze, ma quali possono essere le problematiche pregresse che potrebbero inficiare l'ottenimento di un mutuo. Quali possono essere? Il più importante è capire quali sono e se ci sono debiti di carattere familiare precedentemente assunti, che fanno abbassare notevolmente la cifra disponibile per poter pagare una rata di mutuo. E quindi, se non si entra in questo merito, non si ha la capacità esatta di quanto il nucleo familiare può pagare di rata di mutuo. Quindi in genere si va in banca con la busta paga, io questo prendo mensilmente, quindi quale mutuo ho teoricamente diritto e quale mutuo potrei ottenere? E invece non ci sono. Se poi tra l'altro qualcuno... oltre ai prestiti ci sono le bollette, ci sono tante altre cose che attengono al bilancio familiare. Esatto, che ma si se qualcuno non ti chiede se c'hai altri debiti o con chi è di che importo e tu non sei parte positivamente dialogante per poterlo dire, ti trovi nelle condizioni poi al momento finale che le banche fanno le interrogazioni alle famose SIC, cioè sistema di informazione creditizio, dove siamo tutti schedati, sono tutti schedati tutti i nostri debiti, compreso la scopa elettrica per la quale paghiamo 10 euro al mese, e lei, poi la banca ci viene, ci risponde. Lei è un buon pagatore, per esempio, però avendo già contratto dei debiti molto alti non può avere questo mutuo perché con quello che le rimane non potrebbe portare avanti la sua famiglia. Certo. Dottoressa Trabucchi, quando sul vostro sito Simutuo cominciate a fare le domande ai clienti che cercano di capire se sono in grado eventualmente di fare una richiesta di mutuo alla banca, queste domande vengono fatte? Assolutamente, c'è un campo specifico che prevede appunto l'annotazione degli impegni in corso, viene riportato il debito residuo, l'ammontare mensile dell'impegno, la scadenza, quindi possono essere inseriti tutte le tipologie di finanziamenti, partendo dal mutuo alle cessioni, tutto quanto insomma rappresenti un debito. E quindi in sostanza poi rimane proprio il netto, come dire, del reddito che può essere dato a servizio del mutuo. Dottoressa Trabucchi, come promesso le faccio fare un preventivo, ce lo chiede Anna Maria da Vicenza, che saluta. Anna Maria, buongiorno. Vediamo buongiorno se riusciamo a, farle una cosa buongiorno corretta, ovviamente poi ci prenda con il beneficio d'inventario perché è una procedura che non si può espletare ovviamente in 12 secondi, ma ci proviamo, ci dica. Allora, volevamo acquistare una porzione di una trifamiliare, il costo di questa trifamiliare è sui 300.000 euro e noi volevamo fare un mutuo di 140.000 euro. E lo stipendio è uno di 1.700 al mese e un altro di 1.200. Quindi abbiamo un'entrata praticamente netta di 2.900. Adesso non so, dottoressa Trabucchi, se le serve il reddito complessivo di questa famiglia. No, va benissimo. Allora, praticamente io ho tra l'altro anche di fronte a me il confronto, le migliori offerte, cioè la necessità di rispondere alla prima domanda che è finalità mutuo. Quindi Anna Maria, la prima casa questa? Cioè avevamo un appartamento, l'abbiamo venduto e abbiamo avuto alcuni soldi, insomma adesso volevamo prendere questa... questa seconda, questa villa, praticamente questa villetta, questa porzione, è un acquisto. Di una trifamiliare, sì. Dottoressa Trabucchi, che cos'altro le serve? L'importo allora, del mutuo ce l'ha già detto? Sì, abbiamo la simulazione con un tasso variabile che troviamo presente oggi all'1,91%, stiamo considerando uno spread medio dell'1,30%. Ho bisogno di porre alla signora una domanda in merito alla composizione del nucleo familiare. Anna Maria, in quanti siete? Un bambino di 15 giorni. Ah, che bello, Anna Maria, complimenti, congratulazioni. Ultima domanda relativa proprio agli impegni in corso. Sono presenti finanziamenti, altri impegni, altre rate? Per il momento no. No. Quindi insomma intanto mi sembra delle migliori cliente. Esatto. Medaglia d'oro. Medaglia d'oro della clientela, naturalmente. Direi che come previsto il semaforo è verde, non sono presenti ostacoli, sono soddisfatti tutti i rapporti richiesti dalla banca, sia in termini di percentuale di intervento. Non abbiamo chiesto che tipo di durata vorrebbe Anna Maria di infatti, noi questo volevamo dai 25 ai 30 anni. Quindi infatti fare comunque una rata abbastanza contenuta. Ecco, mi permetto di sottolineare che questa simulazione è stata fatta a 25 anni proprio perché statisticamente è rappresentata un po' dalla media delle durate di richiesta. Ci siamo ormai stabilmente allungati a 25, dottoressa Trabucchi? Sì, direi che la media si attesta 27. Precisamente a 23 anni. 23, secondo il dottor D'Allegretti, 27, beh in ogni caso se pensiamo che fino a almeno 5-6 anni fa più di 15 anni i mutui non duravano, dottor Allegretti, anche questa ce la dice lunga su. Sì, diciamo che Anna Maria teoricamente potrebbe, ma l'avevamo già capito, il valore della casa è piuttosto importante, se non ci sono altri impegni finanziari per 140.000 al di sotto della metà del valore dell'abitazione, Allegretti, è una pratica che dovrebbe passare abbastanza tranquillamente questa. Assolutamente. che altra indicazione possiamo dare ad Anna Maria? Allora, Anna Maria ha scelto subito, adesso poi magari facciamo delle valutazioni sullo spread, perché in questo caso la dottoressa Trabucchi ci ha proposto un 1,30, probabilmente ci sono sul mercato delle opzioni molto più costose, ma anche qualcuna più conveniente. Però le ha proposto il variabile. Io gli proporrei un mutuo col cap, cioè col tasso massimo di pagamento, perché ritengo che sia la soluzione migliore oggi, visti i tassi molto bassi. È correttissimo il dato sullo spread compreso l'Euribor, per cui siamo al di sotto del 2%, però se non ho capito male la nostra radioascoltatrice, entrambi sono lavoratori dipendenti. Sì, mi pare di sì. E quindi a questo punto, considerando che la redditività che si produrrà nei prossimi anni è sempre legata all'aumento del costo del lavoro, eccetera, quindi non si prevederanno degli aumenti consistenti per ciò che riguarda la retribuzione, quindi ritengo che un mutuo che in ogni caso possa costare un po' di più, ma che ha la sicurezza di non superare determinati limiti, possa far stare piuttosto tranquilli. Dottoressa Trabucchi ha fatto anche un calcolo della rata, cioè partendo con un tasso variabile che adesso è su questi livelli, come ci ha detto, lo spread all'1,30, quale sarebbe la rata di partenza, e in alternativa se Anna Maria scegliesse invece l'opzione a tasso fisso per essere più sicura per tutta la durata del mutuo, che differenza c'è tra le due? Allora, la rata è stata calcolata al 590,27 euro mensili. Se parlassimo invece di un tasso fisso... Facciamo subito il calcolo al volo, naturalmente diamo il tempo al motore di ricerca di ricalcolare la seconda opzione di cui gli abbiamo fatto richiesta. Una rata di 810 euro circa. Con un tasso che si attesta nell'ordine di un 4,90%. No, abbiamo fatto, le ho chiesto questi due, i due estremi praticamente, perché Anna Maria potrebbe dire: io parto con il variabile, so qual è il livello massimo possibile del fisso verso cui posso andare incontro, e magari faccio già un calcolo che questa situazione potrei anche sostenerla in futuro, quindi questo mi darebbe in qualche maniera una spinta in più, e Allegretti a scegliere il variabile pure in questo momento al netto della protezione. Certo, io le ho detto, io farei un mutuo cap col tetto massimo già prestabilito. La rata mi costa un po' di più, però la garanzia, essendo lavoratore dipendente, che non mi vada a inficiare il reddito familiare complessivo. Però insomma, ribadisco, abbiamo scelto la miglior situazione possibile, e non tutte sono sempre così semplici, soprattutto appunto nella contrattazione con la banca. I problemi che escono sono tanti, ci possono essere anche delle case che abbiamo scelto che presentano dei problemi pregressi. Sì, come per esempio Allegretti, c'è un ascoltatore che ci scrive: sì, io ho una casa, voglio acquistare una casa su cui grava un'ipoteca, c'è qualche banca disposta a fare il mutuo? Beh, tutte, perché contestualmente a rogito questa si cancella. Assolutamente sì, bisogna vedere, certamente l'acquirente precedente aveva contratto un mutuo per l'acquisto dell'immobile, questo non dà nessun problema, perché il nuovo acquirente può contrarre tranquillamente mutuo il giorno della stipula dell'atto pubblico di compravendita, con la somma riveniente dal nuovo mutuo si estingue il precedente, quindi ipoteca sempre di primo grado, è un'operazione tranquillamente che ormai si fa da anni in Italia senza che questo crei alcun problema. Infatti, anche perché sennò non ci dovrebbero essere case ipotecate, ma invece contestualmente al mutuo l'ipoteca parte. E come? C'era un'altra domanda prima di ricominciare a sentire gli ascoltatori che volevo fare alla dottoressa Trabucchi di Simutuo, per capire se una volta fatta tutta la domanda per richiedere un preventivo alle banche di cui intermediate il servizio, c'è anche qualche servizio aggiuntivo per i consumatori, oppure una volta terminato il preventivo la vostra, come dire, consulenza si ferma là, mettete direttamente ammettendo che io ho trovato il preventivo che fa per me, mi mettete voi in contatto con la banca o devo andare io allo sportello? Allora, ci sono opzioni diverse, è sempre il cliente che sceglie che tipo di strada percorrere, quindi ci sono banche che offrono servizi completamente online e quindi l'intero processo avviene per via telematica o telefonica, e il cliente dovrà semplicemente presentarsi il giorno dell'atto per procedere alla stipula del contratto di mutuo e di compravendita. Ci sono invece altre alternative fornite da banche tradizionali. Quindi noi inviamo direttamente l'esito della simulazione alla banca, il cliente verrà contattato direttamente dalla banca prescelta presso lo sportello che lui stesso attraverso il sito indicherà come preferito. Quello più vicino, certo, più comodo. Esattamente. E in seguito all'incontro deciderà poi come procedere con la banca direttamente. Quindi non è vogliamo... ovviamente, ecco, il vostro è un preventivo, non c'è assolutamente nessun tipo di vincolo poi. Assolutamente. Quando, come dicevo prima, vogliamo semplicemente offrire al cliente, mettere a sua disposizione tutti gli strumenti necessari ad una scelta consapevole. Ogni prodotto è correlato da una scheda analitica relativa al prodotto stesso, dove sono indicati importi minimi, importi massimi, l'indicizzazione nello specifico, così come ogni prodotto è dotato di fogli informativi, trasparenza e tutto quanto possa essere elemento di approfondimento per lui. Benissimo. Sergio da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e congratulazioni per la trasmissione. Grazie. Niente, io volevo dire... Ecco, non ci voleva dire niente perché purtroppo è caduto, l'abbiamo fatto aspettare troppo, ha scaricato la batteria. Credo che Sergio volesse raccontarci che è passato da un mutuo a tasso fisso a uno a tasso variabile, si trova bene e vorrei ben vedere, avrà abbattuto, poi non so quanto mutuo avesse, ma almeno 200-300 euro così un po' a spanne dati gli importi richiesti negli ultimi anni e le durate Allegretti, così proprio la dico, ma c'è un mio collega che ha fatto una scelta di questo tipo di recente, credo che abbia abbattuto qualcosa come 400 euro la sua rata mensile. Però il tema è, se i tassi ricominciano ad esplodere, almeno so quanto teoricamente, se io passo adesso al variabile, potrei andare a pagare, e quindi è una situazione che ho già vissuto. Per qualcuno forse questo rischio vale la pena correrlo, fare una marcia indietro e tornare al variabile Allegretti. Beh, vediamo che succede nel mercato vicino a noi, vediamo che succede in Francia. In genere in Francia i mutui a tasso variabile possono essere sottoscritti da coloro i quali non hanno reddito fisso, cioè dagli imprenditori, dai professionisti, ed è assolutamente negato a coloro i quali hanno il reddito fisso, sono lavoratori dipendenti. Perché se lei considera, va a vedere in Francia adesso i tassi di default che ci sono, le percentuali sono la metà di quelli italiani, perché la problematica è questo: spesso non si paga la rata perché non si arriva a fine mese. Certo. E allora la banca, nel momento in cui concede un prestito che, come abbiamo sentito, si sta allungando sempre di più, le ricordo che in Italia ci sono banche che fanno anche 40 anni, in Giappone si arriva a 99 anni. Sì, ma che bella eredità che lasciamo. Una bellissima eredità, però gli immobili, lei sa, in Giappone costano tantissimo. E quindi le dicevo, vanno valutate le varie situazioni. Quindi il tasso variabile va bene per colui quali ha la possibilità ogni anno di variare la sua redditività, certo, anche in base alla tua attività professionale. Oppure almeno se adesso dobbiamo, non lo so, indebitarci per una cifra abbastanza contenuta, allora, pertanto, come dire, anche uno spostamento del tasso, adesso siamo all'1%, dovessero arrivare al 2, al 3%, insomma, magari la rata si aumenta inevitabilmente, ma non in maniera tale da scompaginare completamente il nostro bilancio familiare, come è successo, e lo ricordo, insomma, quante trasmissioni abbiamo dedicato a quell'argomento, tutto quello che è successo nell'autunno del 2008. E ancora qualcuno deve tirarsi fuori dalle secche di quella situazione, perché sono in corso le sospensioni, c'è la moratoria per le famiglie in questo momento, e quindi ancora qualcuno ne sta pagando le conseguenze. Vorrei sentire Marco da Pavia. Buongiorno Marco. Buongiorno. Rapidissimo, grazie. Ci dica tutto. Io chiamo perché sto acquistando casa e ho già pagato una parte dell'importo e andrò a rogito nei prossimi mesi. Sì. Il mio dubbio è questo. Ho provato a vedere online alcuni mutui, ma essendo io un libero professionista mi chiedo se poi avrò difficoltà ad ottenere appunto il mutuo non avendo una busta paga, quindi non avendo un reddito da lavoro dipendente. E qui ritorniamo Allegretti, all'indicazione che abbiamo dato all'inizio, adesso senza spaventare Marco da Pavia, perché ovviamente ci sono tanti liberi professionisti in Italia, non per questo questi non... Eustachio dice, persino io, non per questo queste persone hanno diritto a comprare casa. A questo punto che cosa gli possiamo suggerire di fare? Beh, bisogna vedere naturalmente che la sua redditività subito, la sua redditività. Che non vada a ridosso del rogito, insomma. Assolutamente, anche perché poi deve chiedere rimandi che sono sempre tediosi. Intanto gli facciamo fare due bei preventivi sul vostro sito e su Simutuo. Assolutamente, ecco. Sì, assolutamente sì. E poi la banca eventualmente o chiunque gli farà la valutazione della redditività espressa negli ultimi 2 o 3 anni per vedere se c'è continuità o ci sono delle fibrillazioni. Che cosa potrebbero... che con gli ultimi 2 anni, con quello che è successo, potrebbe esserci stata. Marco, c'è ancora in linea? Sì, il mio problema è proprio questo, che io lavoro da poco tempo. Quanto? 21 anni, quindi... Ho iniziato a lavorare da poco e quindi non vorrei che questo fatto... Gli chiederanno delle fiduzioni. Marco, allora lo abbiamo perso, adesso speriamo che non si sia spaventato, poi se vorrà magari ci scriva. qualche cosa di più preciso e quindi magari riusciremo a dare una consulenza un po' più dettagliata rispetto al suo caso. Andiamo a Trento da Luca. Sì, pronto, mi sente? La sento, Luca, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io dovrei comprare casa. Sì. L'idea era di acquistare una casa attorno ai 300.000 euro con un mutuo di 250.000. Sì. Io e mia moglie siamo due lavoratori dipendenti con il reddito. Io circa di 2.000 euro e lei di 1.500 al mese. Sì. Cosa mi consigliano i suoi ospiti? Allora, intanto la casa è bella impegnativa e il mutuo anche. La durata sarà piuttosto lunga. L'entrata non è indifferente. Dottoressa Trabucchi, poi sentirò anche Eusto che si è già fatto un calcolo e lo vedo qui davanti a me. Dottoressa Trabucchi, io non la vedo, ma tutta questa situazione che cosa le suggerisce? Intanto un pochino di cautela, il mutuo è molto alto. Se ho capito bene, l'importo di mutuo ammonta a 250.000 euro. Esatto, valore della casa 300.000. Ecco, l'unico... diciamo piccolo vincolo è dipendente dalla percentuale di intervento. Solitamente gli istituti di credito finanziano l'80% considerando il rapporto costo immobile e mutuo richiesto. In questo caso la percentuale che richiede non è rispettata. Infatti, ci sono invece problemi relativi al rapporto rata-reddito. Quindi Luca, esatto, quindi la richiesta è un po' troppo onerosa rispetto al valore dell'abitazione. Allegretti. 2,40, se 300 massimo è 80. Voglio ricordare un altro aspetto fondamentale, certo, che al di là del valore espresso in compromesso o eventualmente in proposta d'acquisto se il compromesso manca, ricordiamoci che fa fede non quanto pagato ma il valore di perizia espresso. Esatto. Che spesso oggi è più basso del valore di riferimento. Eccoci e la qua. Banca tiene come valore di riferimento non il compromesso ma la perizia. Quindi attenzione, potrebbe essere che nel caso di Luca la banca vada a periziare l'abitazione e dice questa per me non vale 300.000 esatto, euro, ne vale 280, e quindi il mutuo che gli vorrebbe, che gli potrebbe erogare potrebbe essere di 200.000 euro anche. Correttissimo. E quindi insomma facciamoci ecco anche lì un'altra cosa da fare prima, anche se non siamo andati in banca, abbiamo scelto la casa dei nostri sogni, facciamoci fare un paio di perizie indipendenti che poi potrebbero anche non essere, come dire, simili a quelle della banca e però magari possono darci un orientamento. Quanti problemi, le assicuro che in questo ultimo periodo, in questi ultimi 8 mesi, tra le problematiche che sono sorte, che prima non esistevano col mondo bancario, e la valutazione della perizia, il momento dove c'è il maggior scontro tra alleati e banche, tra clienti e banche, perché le banche adesso non fanno più valutazioni considerando il mercato immobiliare a rialzo, certo, come si faceva a fino al 2008, adesso si fanno a ribasso, quindi spesso ci si trova di fronte alla situazione che io pago la casa 300.000 euro e per la banca vale 250. Speriamo di aver dato qualche utile suggerimento anche al nostro ascoltatore da Trento e che non abbia dato nessun tipo di caparra intanto per questa abitazione se ci ha già messo gli occhi. Allora, io in realtà ho 30 secondi di tempo, per cui non riesco a sentire né Marco da Bologna né Andrea da Modena. Dottoressa Trabucchi, altre due indicazioni finali per poter usufruire al meglio del vostro servizio prima di salutarci? Beh, di valutare prodotti alternativi. Noi ci siamo limitati a parlare di mutui a tasso fisso, di mutui a tasso variabile, di mutui con cap. In realtà ogni istituto di credito ha proposto nell'ultimo periodo dei prodotti cosiddetti strutturati che consentono un'alternanza con varie opzioni tra il fisso e variabile, alcune molto vantaggiose dove si può partire con un tasso variabile e avere già un tasso fisso predeterminato dopo i primi 24 mesi. E poi ricordiamo anche che adesso la portabilità un po' più semplice, 5 secondi ad Eustachio Allegretti perché sto terminando, l'ultima raccomandazione ai nostri ascoltatori? Attenzione all'indebitamento consapevole, cerchiamo di non pagare per prestito mutui una somma che ceda il 33% del reddito complessivo familiare. Benissimo, allora nel frattempo andate a visitare anche Mutuo Smart e Simutuo, fateci sapere se funzionano o meno, se siete contenti, io riporterò tutte le osservazioni ai diretti responsabili. Intanto Salvadanaio torna domani, buona giornata.